Anche il segretario del Partito Comunista Cinese Yu Jintao se ne va. Io mi sento obbligato a restare in campo. Silvio Berlusconi invece è sempre lì. Però non riesco a capire il mio peccato.